Cialtroni nello spazio, la trasmissione tecnologico-mediatica informatica di Radio Onda d'Urto. A farlo in diretta ti viene bene, Marco. Parla via. Sembra quasi uno serio. Ero concentrato 2 o 3 secondi fa per quello. Hai fatto, e non, vedo che non hai scritto neanche gli appunti, quindi insomma è tutta farina del tuo sacco. Non hai visto come è diventata rossa. Mentre tu non c'eri, noi ci siamo decialtronizzati. Vi siete allenati, vi siete... Adesso come la chiamiamo la trasmissione, se voi siete seri? Professionisti nello spazio. Professionali. Allora, anche oggi informatica, musica libera sulle nostre frequenze. Tra un po' sceglieremo un gruppo da farvi ascoltare oggi, come dicevamo, in diretta, proprio per dare la possibilità anche ad ascoltatori e ascoltatrici di esporre tutti i loro dubbi telefonando allo 030 45 670. Se non ci saranno interruzioni da parte degli ascoltatori e ascoltatrici, che potranno venire anche insultate per le loro incompetenze informatiche, non sto scherzando, potranno insultarci per le nostre incompetenze informatiche, oppure essere invitati ai corsi che continuano. Siamo arrivati alla seconda lezione Linux base organizzati dal Circolab, questa sera. Cominciato la settimana scorsa, sembra che vadano abbastanza bene. Sembra quasi che non abbiamo una scaletta oggi per come stiamo iniziando. Ma infatti noi non l'abbiamo, perché ce l'ha Alessandro, che non ha ancora detto niente. Ciao Ale. Ciao. Allora, la scaletta è un po' scarna, vedremo con un po' di completare. Comunque sentiremo Necro, un ragazzo del Circolab, il più giovane, il pischello del Circolab, che ha fatto, diciamo, da coordinatore lato studenti di un progetto che c'è stato all'ITIS Castelli. Parleremo di un aggiornamento sul bug di sicurezza di Windows che ha attaccato anche i siti dell'Asus, che è un grosso produttore di hardware, e un appuntamento che c'è a Bologna a fine settimana e un link con un po' di materiale utile. Allora, giusto il tempo di trovare il numero di Negro, che ovviamente in questo momento abbiamo quasi perso. Uno stacco musicale sempre con i Chemical Brothers Remixed, e poi il collegamento per parlare del progetto che è iniziato al ITIS Castelli, che sta per iniziare. Allora, come annunciato, siamo in collegamento con Necro, uno dei ragazzi del Circolab, nonché uno studente del ITIS Castelli. Ci parli un po' del progetto Lazzaro. Allora, questo progetto nasce con l'idea di recuperare vecchi computer non più utilizzabili. I computer per questo progetto ci sono stati forniti dall'SM. E noi dopo un... Dovresti abbassare... Hai la radio accesa per caso? No. No, ok, allora abbassiamo un po' il volume noi, scusa, in questo caso è colpa un po' nostra. Dicevamo? Nasce, praticamente abbiamo fatto uno studio, abbiamo deciso di utilizzare Linux per recuperare questi vecchi computer che abbiamo. L'idea di base è che non è per gli utilizzi attuali, classici, cioè utilizzare una suite Office o navigare in internet, vedere la mail, non è necessario avere un computer completo, ma basta semplice, come succede adesso, cioè computer con 3 GHz per vedere la mail, cose simili, ma bastano computer molto meno potenti. Così nasce questo progetto, che l'idea è di centralizzare tutto, cioè lasciare un solo computer potente che gestisce tutti gli altri, che non devono fare praticamente niente. In questo caso ci sono stati forniti dei vecchi computer dall'SM e noi appunto abbiamo creato, grazie a Linux e a una distribuzione che si chiama Ubuntu, un'architettura che fornisse il sistema operativo attraverso la rete e in modo da riutilizzare appunto questi vecchi computer. Ecco, allora, per quanto riguarda questo progetto, da dove sono arrivati i computer e quali saranno le, insomma, oltre all'email? Dall'SM. Ah, okay. Era distratto. Ma quindi il laboratorio adesso è già funzionante, utilizzato? Esatto. Allora, il laboratorio adesso si trova alla scuola media Ugo Foscolo, l'abbiamo già provato anche con i ragazzi lì presenti, ed è funzionante. E alla fine, con una spesa totale di 600 euro più la cablatura della stanza, abbiamo ottenuto 12 postazioni completamente funzionanti. E tra l'altro anche completamente a posto per quanto riguardano le licenze, in esatto, quanto esatto. Avete le licenze utilizzato. È tutto basato su software gratuito, e non solo, ma anche libero, cioè open source, free software, e appunto. Ah, la musica che stai sentendo sono un po' di cose che stiamo provando a fare. Senti, Necro, per il momento noi ti ringraziamo ancora per questo progetto e ci sentiremo poi per altre iniziative analoghe che speriamo possano nascere anche magari sulla scia di questa iniziativa. A meno che non ci sia già qualcosa in ballo, non lo so, no. Qualche altra... Vabbè. Adesso con l'ITIS, l'ITIS comunque è visto che è molto disponibile per questi progetti, infatti abbiamo ricevuto un sostegno anche dalla presidenza e tutti i nostri docenti, e adesso stiamo anche progettando di fare un cluster con Linux, appunto, che sarà presentato anche come un progetto alle prossime Orientando, cose simili. Beh, quindi non vorrai più farlo al circolo a Ballora? Beh, sarà un prototipo quello. Maledizione, okay. Speravo di liberarmi di questa piaga. Va bene, vi ringrazio. Ciao, a presto. No, per quanto riguarda il software libero, c'è poi una bella collezione di software che si trova su una pagina di Wikimedia. La segnaliamo: meta.wikimedia.org/wiki, che si scrive WIKI, open-source. -tool set, che si scrive tool set. Ecco, all'interno di questa pagina voi trovate le segnalazioni di diversi software, decine e decine di software, dalle più svariate, quindi dalla grafica al editing audio video, fino a quello che può essere l'utilizzo più comune, come il software per navigare o per scaricare la posta, più altre, diciamo così, possibilità che vi vengono offerte. Allora, meta.wikimedia.org/wiki/open-source.toolset. Si parla anche un po' di software libero, insomma. Il link lo trovate sul sito. Comunque ti interrompo perché abbiamo una telefonata. Oi. Vediamo. Pronto? Manuel? Sì. Ok, ciao. Ciao. Dici tutto. Dici. Allora, io ho un problema. Aiuto. No, beh, aspetta un attimo. Io ho una copia, cioè c'è una cosa che non capisco. Io ho Windows XP, no? Sì. E allora ho lo strumento di notifica di Windows Genuine Advantage che mi avvisa che se la copia di Windows non è autentica, ma io lo so già che la mia copia di Windows non è autentica, non ho bisogno che... Puoi lasciare anche nome, cognome e indirizzo che lo comunichiamo direttamente. Dai, infatti. No, a parte tutto ciò, se viene rilevato che non è autentico, lo strumento consente di dire, ma io non voglio lui, come faccio a mandarlo via? Beh, del VGA avevamo già parlato altre volte perché era una degli update di Windows. Tra l'altro aveva sofferto anche di un bug. Di fatto puoi tranquillamente ignorarlo, nel senso che oltre che mandarti questo messaggio non fa... se vuoi proprio farlo sparire... Dovresti cercare un po' su Google. Esatto, sì, si trovano... Oppure ti compri una licenza di Windows. No, questa sì. La scartiamo. Esatto. Ma rispetto alla prima ipotesi, allora ok... Vabbè, ora io me lo tengo, però lui non è che si fa i cavoli miei, diciamo, io lo tengo lì, no? No, no, non è... Non, per il resto, cioè, comunica solo che la coppia è fasulla. Ah, beh, poi comunica, può comunicare anche altre informazioni, comunque alla Microsoft, qualcosa lì, né? Perché per installarlo lui, tu devi accettare la licenza del VGA, che te l'avranno chiesto, e te l'avrà detto appunto in quella licenza che loro si riservano la possibilità di mandare informazioni relative a quanto hai installato direttamente alla Microsoft. Attualmente non lo fa, e attualmente non agisce, diciamo, su Windows, come era stato fatto per gli altri sistemi antipirateria all'inizio, quando era stato rilasciato. Quindi per il momento di fatto fa solo una segnalazione. Diciamo che in internet ci sono consigli, suggerimenti e pratiche per disabilitarlo, vabbè, che sarebbe un po' tedioso dire qua, e poi vabbè, chiaramente è sempre al limite della... Però diciamo che si trovano tranquillamente queste informazioni, diciamo che si trovano le versioni della VGA da sostituire, che elimina tutto, le segnalazioni, eccetera. Si prende questo file e lo si copia al posto di quello originale, sostanzialmente. Per il momento comunque non è gravissimo. No, allora sopravvivo. Quindi, sì, sì. Ah no, perché sono 2 o 3 giorni che mi rompe le scatole con sto coso, mi prendeva un po' male. Sì, ciclicamente lo cambiano comunque. È già la quarta o quinta versione questa. Ho capito. Sì, sì, sì. Ma non hai mai provato a passare da Linux invece? No, ho paura del dopo. Ovvero del post trattamento. Perché devo starci dietro, è già tante cose a quale stare dietro, però se magari tu, Marco, vuoi venire a farmi l'assistente terapeutico. Vabbè, ma certo, naturalmente. Certo che Marco vuole. Ci siamo dimenticati di dire che Marco... al primo che telefonava, come abbiamo fatto l'anno scorso, c'era un Marco GH impacchettato in regalo. Che fa sempre la sua porca figura col fucchettino in testa. Allora ci ho guadagnato. Poi appena passata Pasqua, sono contento. Vi ringrazio comunque per l'informazione. Ciao Manuel, grazie per la telefonata. Grazie a voi. Ciao. Un po' strana quella di oggi. Comunque continuiamo con gli aggiornamenti. Il sito taiwanese della Asus è stato infettato dal virus del cursore animato, di cui vi avevano parlato gli altri cialtroni la settimana scorsa in mia assenza. Quindi sono proprio curioso di sapere che virus, di che tipo di virus si tratta. Marco, ce lo vuoi un po' ricordare, visto che è stato infettato persino il sito della Asus, che probabilmente qualche tecnico in gamba potrebbe anche avercelo. Qualche tecnico in che senso? Per difendersi. Ok, non ho capito. Non lo so, in particolare di quello dell'Asus, però potrebbe essere qualcosa relativo magari ai commenti generati dagli utenti. Allora, ricordiamo un attimo cos'era questo virus, che era una vulnerabilità dei sistemi Windows, che era stata scoperta ancora a dicembre del 2006 e cui è stata resa pubblica alla fine di marzo e primi di aprile del 2007, e la Microsoft in 448 ha pubblicato una patch. Tra l'altro era carina anche la spiegazione della Microsoft, che diceva come mai questa patch non fosse stata ancora pubblicata a distanza di 3 mesi dalla pubblicazione della vulnerabilità, e appunto dicevano che ci ha messo 1 mese per capire se la vulnerabilità era vera, 1 mese per... testare l'effettiva vulnerabilità. Per capire se una vulnerabilità è vera dovrebbero bastare 10 minuti, cioè fai una prova, vedi. Esatto. Dopodiché 1 mese per vedere se, che tipo di patch creare o creare la patch, e poi un altro mese per testare la patch, e poi un altro mese ancora volevano avere per distribuire questa patch, ovvero sia 4 mesi per fare. Ma quanti giorni al mese lavorano a Microsoft? Ma in realtà il problema è che al solito questa è la notizia ufficiale, poi la realtà è che questi della Microsoft non cagano assolutamente i problemi di sicurezza fino a quando non diventano un problema tangibile e reale per la maggior parte delle persone, per cui a quel punto in fretta e furia preparano una patch fatta su in qualche maniera per correggere la cosa. Bene, era carina questa notizia appunto perché diceva che il sito della Asus, noto produttore di computer e altra, sì, hardware più che altro, hardware, robe tecnologiche, appunto era stato infettato probabilmente attraverso dei commenti inseriti dagli utenti, ok, appunto da questo virus, e quindi chi andava a visualizzare il sito della Asus veniva direttamente infettato da un worm o qualcosa del genere. Ecco, quindi probabilmente anche una delle, diciamo così, problemi che possono derivare dal 2.0, quindi l'interattività totale di alcune possibilità che vengono messe a disposizione degli utenti, è il fatto che anche siti rispettabili, con il, esatto, fatto che possono essere commentati e qualcuno maligno può riesce attraverso i commenti a inserire del codice infetto, anche dei siti rispettabili possono essere infettati con delle falle messe apposta per, esatto, riferimenti verso immagine esterno, cose particolari che appunto vanno a far scattare le, i problemi di sicurezza che, ahimè, sono sempre presenti nei sistemi Windows. Segniamo l'ultima cosa rispetto a questa vicenda, attivissimo Paolo, attivissimo il famoso disinformatico nonché divulgatore informatico, segnala che bisogna scaricare e installare senza indugio l'aggiornamento di sicurezza, cosa che non si può fare se non è la copia originale di Windows e non l'hai craccata in qualche modo particolare, visto che il software che dicevamo, di cui parlavamo prima, con cui parlavamo prima anche con il nostro ascoltatore Manuel, non può più scaricare gli aggiornamenti visto che non è stato beccato con una copia non di sicurezza, con una copia non originale. In alcuni casi è stato segnalato che l'aggiornamento stesso può causare dei problemi, quindi insomma la falla e la sua, anche i coperchi per coprire questa pentola che ribolle di problemi di sicurezza di Microsoft, anche i coperchi non funzionano bene. Segnaliamo che ovviamente la falla non si presenta con sistemi operativi diversi da Windows, come capita nel 99% dei casi di problemi di virus e cose di questo tipo. Quindi ricordiamo al caro Manuel che ci ha telefonato prima che avendo il, e non serve nemmeno installarlo, può darci un'occhiata a Linux, appunto a questo punto lui non aveva più neanche gli aggiornamenti di sicurezza, e il risultato è che insomma potrebbe essere un po' spiacevole la sua navigazione in internet tra un po'. Allora, abbiamo uno stacco musicale per questo pomeriggio. Sì. Allora, Soul Days, Longer Donde, credo. Il problema di Yamendo è che sono tutti in francese e io in francese Longer non me lo ricordo donde. Più. Sì. Longer Donde. Donde. Vabbè, comunque, questo è il brano. Sempre da Yamendo.com. Je replonge. È inutile che ci guardi, potresti dire qualcosa anche tu, insomma. Sempre lì a sfregarti le mani. Sempre lì, non è che fare il mixerista ti esonera dal presentarci qualcosa. Insomma, stavamo ragionando sul fatto che a distanza di 4 anni c'è stata una novità storica. Due anni. Una novità storica e colossale all'interno del mondo del software libero. E tu non vuoi dire nulla, Alessandro. È uscita la Debian 4.0. Esultate poco, soprattutto tutti voi utenti del Circle Lab, perché prima o poi, insomma, entro questo anno verrà aggiornato il server del Circle Lab, che appunto monta una Debian, per cui ci potrebbero... Aspettatevi dei down veramente prolungati. No, teoricamente no, però chiaramente sono sempre passaggi pochino un po' critici e quindi vanno fatti con attenzione, quindi abbiamo un anno di tempo. Naturalmente arriveremo ad aprile dell'anno prossimo. Esatto. Il nostro consiglio comunque per tutti gli utenti alle prime armi è quello di non installare Debian e resta questo. Insomma. Rimane per tutti il consiglio di non installare. No, Jack avrebbe... No, ma vale solo per il Circle Lab che vale installare Debian, insomma. Eh sì. Vabbè, andiamo avanti con le notizie in questi ultimi 10 minuti di trasmissione che vanno avanti. Di che cosa vogliamo parlare? C'è Marco che ci tiene proprio a parlare di Telecom. Telecozza. Oggi, quindi Telecom, e insomma parliamo di Telecom. O della SIP. Come vuoi, insomma, dipende dall'epoca storica che decidi di affrontare. Potremmo fare un excursus storico fino a questo punto. Va bene, in questi giorni c'è la notizia. La faccia di Alessandro. Un peccato che non si possa vedere in radio. Da chi è stata fondata la SIP? Dai Marco, siamo in diretta. Va bene, allora, in questi giorni penso chiunque non viva isolato su una montagna a fare l'eremita ha sentito che... Come ha fatto Zamp? C'è qualcuno che sta tentando di comprarsi la nostra Telecom Italia. Nostra? Nostra, sì, alla fine siamo ancora... Cos'è no, che non stai è dicendo? Più nostra, è vero, adesso. Vabbè, abbiamo già capito che insomma, sarà la parte meno precisa di tutta la allora, trasmissione. Niente, comincia tu, vai. No, sei tu che ci tieni intanto a parlare di Telecom. Io ero contrario, ho votato no. Quindi adesso parli tu. Allora, appunto, c'è una cordata messicana-statunitense che vorrebbe acquistarsi la nostra Telecom Italia. La Telecom Italia in questo periodo sta schizzando in borsa, sempre più in alto, però appunto salta fuori, il governo sta appunto forse pensando di non mollare completamente la Telecom agli acquirenti americani, col risultato di perdere assolutamente il controllo sull'infrastruttura tecnologica e informatica, cioè sull'infrastruttura della telecomunicazione in Italia. E quindi si sta cercando, sembra che si potrà arrivare a un approccio all'inglese in cui c'è stata la separazione, 2 anni fa c'era stata la separazione di British Telecom dalle forniture di servizi telefonici alle forniture di connettività di telefonica e di rete. E niente, speriamo che questa cosa avvenga anche in Italia. Al momento non è esattamente così, nel senso che quando la Telecom Italia è stata privatizzata non dobbiamo mai affidare le cose a Marco. Ovvero quando sono state vendute quote della società, per cui la parte di Stato è venuta in minoranza, quella che si chiama la Golden Share, ovvero una parte di minoranza in cui c'è la possibilità di porre alcuni vincoli. Insomma, quando è stata venduta, il governo di allora aveva deciso di non smembrare l'infrastruttura dal gestore telefonico, chiaramente per venderla ad un prezzo maggiore. Perché si veniva venduto sostanzialmente il monopolista delle telecomunicazioni italiane all'epoca e comunque quello con la posizione dominante maggiore. Telecom Italia è passata attraverso varie mani, chiaramente pagata tanto poco punti di vista, tendenzialmente poco rispetto alla posizione dominante che aveva e che continua ad avere Telecom. Adesso che c'è una cordata di compratori stranieri, c'è questa levata di scudi tipica del mondo politico, del mondo economico italiano, per cui si parla di uno smembramento posteriori. Chiaramente non è proprio così semplice come dirlo, nel senso che è stata venduta e gli azionisti di Telecom Italia adesso potrebbero reclamare, reclameranno sicuramente rispetto a uno smembramento. È facoltà assolutamente dello Stato farlo. Negli Stati Uniti è una pratica comune dell'autority antitrust, che ha smembrato colossi come il colosso delle acciaierie, oppure rimanendo sempre nel settore delle telecomunicazioni, le AT&T, che tra l'altro è dentro la cordata di che si sta per comprare Telecom Italia. Tra l'altro anche su questo ci sarebbe cosa da dire, nel senso che AT&T ha dimostrato, sì, dopo essere stata smembrata, insomma, è riuscita a tornare comunque ad avere una posizione. AT&T ha mantenuto comunque una buona posizione all'interno del mercato americano, non la posizione dominante che aveva. Sostanzialmente era in pratica il colosso, il monopolista statunitense, che non è proprio come il monopolista italiano, nel senso che coprire tutti gli stati americani era veramente una posizione dominante, chiaramente di grossissima rendita. E sta di fatto comunque che AT&T non garantisce oggi un granché, soprattutto ai lavoratori, visto che negli Stati Uniti nel comparto europeo negli ultimi anni ha smantellato prima il 5%, poi il 10% della forza lavoro dal 2004 in poi, trasferendo molti call center in paesi in via di sviluppo, dove chiaramente la manodopera e i vincoli contrattuali sono inferiori. Il costo della manodopera e i vincoli contrattuali, quindi diciamo che non si può, difficilmente si può difendere sia il proprietario attuale, Tronchetti Provera, sia chi entrerà o acquisendo le quote sul mercato borsistico. La speranza è che almeno questo cambio di bandiera riesca a far dividere perlomeno l'infrastruttura dal gestore telefonico, diminuendo il potere di questa azienda, che altrimenti continuerà a dettare legge nel mercato delle telecomunicazioni italiane, con tutto anche tutta la questione sulla privacy e tutti gli scandali che sono successi negli ultimi anni. Tra l'altro, notizia recente sull'applicazione di alcune norme del decreto Bersani. Per quanto riguarda la DSL, il cambiamento del provider prima della fine dell'anno minimo di contratto prevederà un pagamento della disattivazione. Quindi se voi fate un contratto a DSL nuovo, se decidete di cambiare operatore entro l'anno, dovrete pagare una tot cifra stabilita dall'operatore, che generalmente è la quota pari alla copertura dell'anno. Quindi comunque voi vi dovete pagare la DSL per un anno intero, anche se decidete di disdirla prima. E perché Telecom Italia lo farà pagare agli operatori, l'ha annunciato prima Telecom Italia, poi alcuni altri provider. Le associazioni dei consumatori hanno già cominciato a protestare per questi balzelli, che sostanzialmente sono un vincolo alla concorrenza e alla libera scelta dei consumatori, che sono obbligati a tenersi per un anno la DSL di un operatore che magari adescati con qualche pubblicità farlocca. Sì, non troppo comunicativa, dove non so, vi dico. No, molto comunicativa, ma nelle cose che vogliono tenere nascoste è anche molto efficace. Insomma. Esatto, quindi questo è uno dei tanti esempi in cui la posizione dominante di un operatore può incidere sulle tasche di tutti, così come sui contratti ADSL, come su quelli telefonici in generale. E anche il fatto di avere un operatore di questo tipo, che comunque schiaccia molto il mercato e impedisce che anche gli altri, che comunque non sono degli angeli, vedi Wind con che da quando è stata acquistata dalla cordata egiziana ha dato una svolta alla sua linea aziendale, sostanzialmente riducendo i costi sempre sul costo del lavoro. Quindi diciamo schiaccia il mercato, poche possibilità, per cui anche gli utenti hanno difficoltà anche a scegliere altri operatori, perché insomma, tolti quei due o tre, non ci sono molte, molte alternative. Adesso diamo le ultimissime news, intanto che Alessandro cerca la, l'appuntamento del crash di questo fine settimana, che vedo che non è ancora stato aperto sul computer, quindi non ci ricordiamo sicuramente a memoria l'indirizzo di questo nuovo appuntamento del Chaos Tour. Le ultime segnalazioni, Marco, per quanto riguarda il Circolab, ricordiamo gli orari di apertura, beh, a parte i corsi di questa sera che inizieranno attorno alle 21 presso la sala del, esatto, della CGL, allora il corso lo... per quelli che sono iscritti al corso. No, ma no, realtà... no, no, fermo, non dire cattive, non dire cacate. Stavo dicendo, siamo alla non la facciamo la CGL, ah, il corso, tu non c'eri la settimana scorsa. Abbiamo deciso di farlo al Circola perché, okay, il numero di utenti era, vi tenete sempre all'oscuro, permetteva di farlo direttamente al Circola e quindi con più facilità, più libertà di accesso alle macchine e quant'altro, e quindi niente, stasera c'è la seconda puntata del corso. E ma se qualcuno vuole iscriversi, insomma, un compendio veloce, decide di venire a seguire il nostro corso da stasera, magari ce lo fa sapere prima telefonicamente al numero sovraimpressione sottoimpresso. Ale sta facendo troppe cose inutili. No, ce lo deve far sapere via mail al nostro indirizzo corsi@circolab.net. Vabbè, insomma, potete chiamare anche in radio. No, più che altro dobbiamo riuscire a organizzarci, se arrivano, certo, delle persone in più. Ah, se volete ci prendiamo per ancora la giornata di oggi, potete chiamare in radio per sapere qualcosa sul corso allo 030 45670. Poi dalla prossima settimana diventerà un po' difficile inserirsi al volo a partire dalla terza puntata, perché insomma sono cose che, se qualcuno veramente non ne sa niente, diventa un po' complicato saltare le prime due puntate. Per, esatto, quanto riguarda invece l'apertura che ci sarà al, allora, del Circolab questa domenica, c'è anche l'apertura del giovedì sera, dalle 7 in avanti fino alle 10 circa, proprio a spanne. E dopodiché l'altra apertura è quella della domenica pomeriggio, e questa domenica finiremo probabilmente verso le 8, 7 e mezza, non so, perché c'è l'inaugurazione del caffè, di un caffè letterario, Un Mondo di Carta, di cui hanno già accennato, esatto, altri. E quindi penso ci muoveremo dal Circolab in massa per questa nuova inaugurazione. Don't. Allora, in chiusura proprio al volo, ricordiamo un appuntamento del Chaos Tour che inizierà, ci sarà a Bologna venerdì, questo venerdì, presso la Facoltà di Scienze Politiche in Strada Maggiore 45, a partire dalle 16 con alcuni del collettivo Autistici Inventati, e poi sabato presso il Crash di Via Zanardi 48 a partire dalle 15:30, un appuntamento del Chaos Tour. Noi siamo veramente in chiusura, tra pochissimo anche la sigla, ricordiamo il Chaos Tour per finanziare il progetto di Autistici e Inventati, che sono poi la stessa cosa. Vai con la sigla e ci sentiamo per quanto riguarda Cialtroni nello spazio mercoledì prossimo, sempre a partire dalle 12:40. Ciao, saluta. Ricordiamo sempre il sito, che è spazio.circolab.net, dove potete riascoltare le puntate precedenti. E la nostra mail, che è radio@circolab.net.